Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione dedicata alle riflessioni, alle iniziative del movimento animalista, antispecista e vegan. La nostra trasmissione, con cadenza settimanale dal marzo 2012, cerca di leggere il passato, ma soprattutto il presente, la cronaca e la cultura dal punto di vista degli altri animali, includendoli nella grande famiglia dei viventi degni di considerazione. Siamo arrivati con questa alla puntata numero 573, nella quale parleremo di un episodio di inseguimento stradale di lupi sulle Dolomiti venete, l'assurdo caso di un piccione migrante in Australia, l'ennesimo attivista per gli animali selvatici ucciso in Sud America, e Anna Granata esordirà nella nostra trasmissione di questa settimana recensendo un libro, Pachi in un bicchiere, una novità editoriale che vi consigliamo per molti motivi. Il sound è a cura di Gianluca Masala. Speriamo di avervi incuriosito. Beccati, ora li scanno! Sono queste le esclamazioni che si sentono pronunciare da un automobilista durante il video che sta girando, mentre di notte insegue a tutta velocità un branco di quattro lupi in una strada imbiancata da neve e ghiaccio, priva di vie di fuga a causa degli alti muri di neve laterali. Un episodio veramente avvilente e decadente che esprime il nulla morale di chi lo ha inscenato e divulgato sui social, essendone evidentemente fiero e pensando di ottenere dei like. Ha ottenuto invece una caterva di insulti e l'Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato denuncia alla Procura di Belluno per maltrattamento ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice Penale. Si tratta di un fatto realmente accaduto al passo Tre Croci nel cuore delle Dolomiti venete, e adesso abbiamo anche il nome e cognome della persona che si è resa responsabile di questa infamia. Si tratta di Luca Ghedina, fratello dell'ex campionissimo di sci Christian, che a Cadin di Cortina conduce l'agriturismo Jägerhaus, è un'azienda di 80 tra bovini, cavalli e suini. L'uomo ammette il suo gesto e di aver realizzato il filmato, però si difende dicendo: quell'espressione sbagliata e per la quale chiedo scusa sia ai lupi che ai loro estimatori e quindi anche a me stesso, mi è uscita spontanea. Ero emozionato, è la prima volta che incontravo un branco, si può constatare benissimo che non avevo alcun intento persecutorio. Veramente, l'intento di un inseguimento simile può essere solo persecutorio, noi pensiamo, in quanto è avvenuto a forte velocità, su asfalto ghiacciato, in una strada priva di vie di fuga, infliggendo così ai lupi una sofferenza fisica e un'angoscia indicibile, che hanno causato a questi animali danni che non possiamo quantificare, ma come minimo avranno riportato gravi lesioni ai polpastrelli. Il branco è stato costretto ad un grande sforzo fisico, un dispendio energetico molto pericoloso, in quanto con queste condizioni climatiche la neve per i lupi diventa difficile procacciarsi cibo e reintegrare le calorie consumate. Nel video si vede chiaramente che l'ultima della fila, la femmina, è in forte difficoltà e nonostante questo l'automobilista non rallenta, non cessa la sua attività di inseguimento. Questo episodio mostra anche l'infondatezza del detto attenti al lupo e la ragionevolezza del controdetto attenti all'uomo. Un episodio di gratuita tortura che ha violato certamente le norme e messo a rischio la vita di questi animali. Nessuno è in grado di sapere come e se questi lupi sono sopravvissuti allo stress. Inoltre, questo episodio ha violato i sentimenti di tutela, di attenzione, di rispetto della stragrande maggioranza degli italiani. Si tratta di un periodo sicuramente molto nero per i grandi carnivori. Pochi giorni fa sul Gargano, nel grande parco nazionale, dunque in territorio di rigorosa protezione, un lupo è stato addirittura impiccato, mentre diventano sempre più numerosi i fenomeni di investimento. È tempo di voltare pagina sulla tutela della fauna e la prima misura deve essere l'attenzione e la persecuzione, a norma di codice penale, di chi pensa di poter giocare con questo bene prezioso, la biodiversità del nostro paese. E dalle Dolomiti venete facciamo un grande salto, andiamo in Australia per raccontarvi una storia, una notizia di attualità che ci sembra un concentrato di assurdità e di ingiustizia. Una notizia sulla quale vorremmo riflettere a partire da una prospettiva naturalmente antispecista. La notizia pubblicata sul Secolo XIX online del 15 gennaio scorso parla di un animale, un piccione, che apparentemente arriva in Australia dopo un viaggio di circa 15.000 chilometri fra lo stato dell'Alabama negli Stati Uniti e la città australiana di Melbourne. I media australiani gridano al miracolo, raccontano che Kevin Chelly Bird, un abitante della seconda città dell'Australia, ha scoperto questo prodigioso animale ribattezzato Joe in riferimento al nuovo presidente degli Stati Uniti, in quanto l'anello che portava alla sua zampa era un anello del paese a stelle e strisce. Ma l'entusiasmo per questo possente atleta pennuto è durato pochissimo. Le autorità australiane, infatti, hanno sostenuto che Joe costituiva una minaccia in termini di biosicurezza e che doveva essere soppresso per evitare trasmissioni di malattie. Il vice primo ministro australiano Michael McCormack ha addirittura fatto la seguente affermazione, riportata dai media: «Se Joe è arrivato senza seguire le nostre rigorose misure di biosicurezza, allora o torna a casa o affronta le conseguenze». Quindi il piccione doveva leggere il regolamento prima di atterrare in Australia o accettare di buon grado la sua esecuzione per non essersi informato adeguatamente. Ma questa è roba nostra. Torniamo alla storia. Dunque, dopo qualche giorno gli esperti hanno stabilito che l'anello di Joe è probabilmente falso e che dunque l'animale non è statunitense. Joe non apparterrebbe quindi a una razza di piccioni allevati per partecipare a gare negli Stati Uniti, contrariamente a quanto faceva supporre il suo anello. Sarebbe invece un piccione australiano della razza turca Tumbler. Non sono allevati per volare su lunghe distanze, ma per eseguire acrobazie in aria. Sono piuttosto uccelli da spettacolo e l'Associazione statunitense per i piccioni da corsa ha confermato questa versione su Facebook, sostenendo che il presunto proprietario americano, rintracciato tramite l'anello, aveva dichiarato di non essere mai stato in possesso del piccione Joe. Non pensiamo che ci sia bisogno di essere antispecisti per ravvedere le molte assurdità di questa storia. Prima la glorificazione, poi l'ostracismo, infine la salvezza. Tutto in nome di una presunta purezza delle razze autoctone e di presunti contagi che potrebbero arrivare dai confini. Ma neanche un'isola è fino in fondo un'isola. E nell'era della globalizzazione facciamo costante esperienza di insetti alieni, scoiattoli alieni, granchi alieni, vegetazione aliena che arriva e si inserisce continuamente dove prima non esisteva, perché nessuna frontiera, nessuna dogana può fermare il cammino biologico e la spinta della vita. Le specie, le razze, sono tutta un'astrazione. La tassonomia è la fotografia di un momento, ma nell'economia della storia biologica del pianeta Terra non si tratta che di istantanee, destinate grazie ai processi evolutivi a mescolarsi, in cicli che sono, quelli sì, naturali, assai più naturali dei piccioni da viaggio, da volo, da acrobazie, da turisti, da tiro, perché è esistito anche il tiro al piccione ed era considerato uno sport, o i piccioni allevati per essere cucinati. For the man. In questo nostro zigzagare tra continenti alla ricerca di notizie interessanti, atterriamo in Sud America e per la precisione in Colombia. La notizia della settimana è curata dal nostro amico e collaboratore Francesco Cortonesi, scrittore e attivista per la liberazione animale. Ogni anno centinaia di attivisti che difendono gli animali vengono uccisi in tutto il mondo. Gonzalo Cardona era uno di loro. Viveva in Colombia, dove da anni si impegnava per salvare un animale a rischio estinzione, il pappagallo dalle orecchie gialle. Per questo impegno è stato ucciso con 2 colpi di pistola al petto. Il suo corpo è stato ritrovato dalla moglie che lo stava cercando. La storia del pappagallo dalle orecchie gialle è un esempio straordinario di conservazione direttamente in natura. Dichiarato estinto nel 1990 e poi miracolosamente ritrovato nel 1997, questo pappagallo è stato preso in custodia dagli attivisti del luogo e Cardona era uno di questi, ma con una passione particolare che lo ha spinto a dedicare al recupero di questo volatile tutta la sua vita, riuscendo in poco più di 20 anni a far crescere la specie fino a oltre 4.000 esemplari liberi. È plausibile che l'omicidio sia collegato all'economia legata a un particolare albero, il Ceroxylon andicolum, una delle cosiddette palme andine della cera, caratterizzate dalla loro notevole altezza e delle cui foglie i pappagalli dalle orecchie gialle si nutrono. Per preservare questi rari animali, recentemente il governo colombiano ha vietato lo sfruttamento delle palme Ceroxylon, avvantaggiando i pappagalli, ma facendo infuriare i commercianti locali che vendono le sue foglie. Foglie che vengono usate dalle popolazioni indigene per riti tradizionali. Ancora una volta abbiamo un'evidenza. Tutto è collegato. L'economia umana, la natura, gli altri animali. Occorre un patto nuovo su cui fondare una futura convivenza pacifica. Ma siamo lontanissimi da questo obiettivo e chi si batte per ottenere diritti per l'ambiente, per gli ecosistemi, per specie vegetali o animali, paga spesso con la vita il suo coraggio. I dati rivelano una verità angosciante. Nel solo 2019, nel mondo ben 212 attivisti hanno perso la vita nel tentativo di difendere ambiente e animali. In pratica, oltre 4 morti a settimana. La denuncia arriva dal nuovo rapporto di Global Witness. Da questo conteggio c'è da escludere l'intero continente africano, che non fornisce dati sistematici. L'uccisione di chi cerca di difendere gli animali e l'ambiente è un problema molto sottovalutato, eppure, soprattutto in alcuni continenti come l'America Latina o le Filippine, è terribilmente esteso e allarmante. Alcuni giorni fa, in Congo, 6 ranger dei gorilla di montagna sono stati uccisi in un agguato. All he wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water. Put out the blowtorch. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope? Haven't told. Promise you haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Only wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a bit nice for a few. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got to know, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Dall'Australia torniamo nello stivale per raccontare un'altra storia. Ancora una notizia dedicata agli amici animali pennuti. Avevamo parlato del piccione australiano Joe e adesso parliamo di storni, tornando nel cortile di casa in Italia, dove la sera del 31 dicembre si è verificata una angosciante strage di storni e di altri uccelli, terrorizzati dai botti e dai fuochi d'artificio. La solita barbara e imbarazzante usanza che sembra proprio non si riesca a superare. L'episodio più massivo è stato segnalato a Roma, dove in alcune strade c'è stato lo spettacolo macabro di centinaia di uccelli ritrovati a terra, morti o agonizzanti. L'associazione LAV ha già sporto denuncia per uccisione di animali contro ignoti e sta raccogliendo firme per chiedere giustizia. L'unica soluzione, sostiene LAV, è chiedere di vietare i botti sia a Roma che in tutta Italia. L'hashtag di questa campagna è giustizia per gli storni, con il per espresso come una X. E per firmare il link bisogna andare sul sito internet della LAV, www.lav.it, e poi nel menu cercare news e poi giustizia per gli storni, notizia che risale al 13 di gennaio. Noi della redazione abbiamo firmato la petizione della LAV contro i botti di Capodanno e Gabriele Palloni, il nostro tosco vegan chef, dedica agli storni la sua ricetta cruelty free di questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Come si dice dalle mie parti, la mamma dei cretini l'è sempre incinta. E anche quest'anno, manco fossero stati pochi i giramenti di scatole, non sono mancati all'appello i soliti idioti che hanno sentito forte il richiamo del botto selvaggio. Ovviamente le conseguenze di tal virile prova è andata a discapito degli animali impauriti, con il caso degli storni a Roma in primis. La ricetta di oggi è dedicata a loro ed è quella della bomba intelligente, l'unica che accettiamo di lanciare. Gli ingredienti per 4 persone per la bomba intelligente, ovvero bombe di patate, sono 400 g di patate, 150 g di farina zero, 2 cucchiai di lievito alimentare a scaglie, 8 g di cremor tartaro, 8 pomodori secchi, un pizzico di curcuma in polvere, 50 g di tofu, della paprika affumicata, rosmarino, sale e pepe e olio di semi di arachide. Lavate le patate e fatele lessare in abbondante acqua. Una volta cotte, sbucciatele senza farle troppo raffreddare e passatele con lo schiacciapatate, quindi lasciatele intiepidire. Nel frattempo tritate il rosmarino finemente. In una bowl unite le patate al rosmarino, la curcuma, il cremor tartaro, il lievito alimentare e aggiustate di sale e pepe. Lavorate bene fino ad ottenere un impasto liscio e compatto. Stendete col mattarello a mezzo centimetro di spessore. Se l'impasto dovesse attaccare, potete aiutarvi stendendolo fra 2 fogli di carta forno. Con l'aiuto di un coppapasta ricavate dei dischi di circa 5 cm di diametro. Farcite il centro della metà dei dischi ottenuti con un pezzetto di tofu, uno di pomodori secchi ed un pizzico di paprika affumicata. Chiudete ogni disco con un altro disco e sigillate i bordi facendo una leggera pressione, come per realizzare dei ravioli. A questo punto potete procedere in 2 modi. Friggete le bombe in abbondante olio di semi di arachide fino a quando saranno ben dorate su entrambi i lati. Oppure optate per una versione più leggera, spennellando le bombe con olio extravergine e facendole cuocere in forno su una teglia con carta forno a 180 gradi in modalità ventilata per 25 minuti. Servitele calde con un pizzico di sale in superficie. ricordiamo che è uscito l'ultimo libro di ricette vegane di Gabriele Palloni, edito da Newton Compton. Il titolo è Se vuoi vivere sano, cucina vegano. Mary had a little lamb, his fleece was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day and broke the teacher's rule. What a time did they have that day at school. Tisket, tasket, baby. A green and yellow basket. Sent a letter to my baby. On my way, I passed it. In chiusura abbiamo il piacere di recensire un libro, un romanzo, uscito i primi di questo mese, che abbiamo ricevuto in anteprima dal suo autore, Franco Plataroti, un torinese insegnante di materie letterarie in un liceo artistico statale. Il libro lo abbiamo letto, ci è piaciuto e abbiamo deciso di proporvelo nella recensione curata da Anna Granata al suo esordio in questa trasmissione. Sentiamo. Pachi in un bicchiere è la storia del cane Pepe che, chiuso in un canile in cui vive nascosto in un cubicolo di cemento per un periodo della sua vita, viene adottato da una coppia di umani. Spike sarà il suo nuovo nome. Poi, affettuosamente, Pachi, nel definitivo riconoscimento del suo importante ruolo in famiglia. Quando mutò pelle anagrafica, e ciò inizialmente avvenne nell'ambiente domestico, Pachi era ormai ampiamente incluso nella quotidianità dei due umani. L'educazione sentimentale aveva avuto luogo e aveva prodotto quel sano compromesso che sempre nasce dal concetto di due diversi interessi fondati su un medesimo obiettivo, vivere insieme, e su un sentimento comune, l'affetto. Lui era stato educato da loro e li aveva educati. È un cane terrorizzato dai rumori che tenta più volte la fuga in modo rocambolesco, ma viene sempre ritrovato e gentilmente ricondotto in quella che sarà la dimora in cui conoscerà l'amore e il rispetto dei due umani e in cui potrà rilassarsi e godere di una vita comoda alternata a veloci e brevi incursioni, cagionati dal suo istinto di appassionato e indomabile amatore. L'autore sottolinea con lucida scrittura la non straordinarietà di questa storia, poiché è riconducibile ad ogni relazione tra compagni di vita umani e non umani in cui si possa instaurare un legame di amorevole reciprocità. Ma colpisce quanto l'analisi del comportamento del cane Pachi sia al tempo stesso lucida e incantata, etologicamente accurata e curiosa. Aveva insegnato ai due umani che esiste qualcosa dietro di noi, qualcosa alle nostre spalle, al quale periodicamente rivolgerci. Sì, perché durante le camminate, nel quartiere o altrove, era frequente vederlo fermarsi e voltarsi indietro, come sospeso, trattenuto, verso chissà quale immagine, catalizzato nella sua attenzione da qualcosa di inesistente agli occhi dei due umani, ma evidentemente per lui esistente, tangibile, se era difficile riportarlo con l'attenzione alla direzione opposta, al senso del cammino interrotto. La scrittura forbita, con periodi lunghi e articolati, in cui neppure una virgola è lasciata al caso, fanno di questo libro un saggio sulla vita di relazione tra animale umano e non umano. L'universo del cane Paki è tutto in un bicchiere, fatto di odori, di un peluche di procione con cui combattere, di cagnoline avvenenti. Ma offre una tale ricchezza di opportunità di apprendere ciò che troppo spesso sfugge all'occhio umano da rivelarsi una inestimabile occasione per chi voglia scegliere di aprirsi alla vita non umana. In loro si rivela un rapporto di scambio di amore e insegnamento reciproco tale da indurre una riflessione ulteriore sul legame tra le specie viventi. Paki gli insegna a non dare nulla per scontato, a usare il bilancino prima di emettere un giudizio, perché dentro ogni piccola creatura si nasconde un universo complesso, sfumato, certo più semplice dell'intricata anima umana, ma anch'esso aggrovigliato e imprevedibile. Questa storia consente all'autore di mettere in evidenza l'importanza della relazione fra l'uomo e il cane e, dettaglio non meno importante di questo libro, di sottolineare la necessità che nella comunità umana si proceda verso un più maturo processo di educazione al rispetto per tutti gli animali. Come lui stesso sottolinea nella introduzione, solo accordando a ognuno di questi ultimi il valore che hanno, quello di creature complete e parte integrante del tutto a cui anche noi umani apparteniamo, si potrà smettere di trattarli alla stregua di nostri subalterni, o schiavi, o, ancora, di oggetti da manipolare in virtù delle nostre speculazioni economiche, dei nostri bisogni egoistici o, ancora, delle nostre frustrazioni. Paki in un bicchiere di Franco Plataroti, edito dalla casa editrice Nulla Die, gennaio 2021. È importante rilevare che parte del ricavato della vendita del libro viene devoluta al rifugio Il Bau di Alpignano, Torino, dell'associazione Bassardini ODV. E con la voce di Anna Granata e il sound di Gianluca Masala vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento con la puntata numero 574 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.